ragazzi, il cazzo di leone, il più bello della stazione, ve lo posso dire io che le ho provati tutti. Il cazzo di leone è il più bello della stazione, ve lo posso dire io che le ho provati tutti. Il cazzo di leone è il più saporito, meglio di quello di Gastone che puzza come una iena. Di quello di Gastone, più bello di quello di Giuseppe, molto più bello di quello di Giovanni, anche più bello di quello di Leonardo, che è uno schifo. Il cazzo di Leone, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio.